Ora siamo in diretta con un compagno d'Atene, il compagno che chiamiamo spesso per raccontarci un po' quello che succede in Grecia al di là delle notizie frammentarie e scarse che arrivano in Italia. Allora, vogliamo cominciare intanto con diciamo il clima che si respira a una settimana praticamente dalle elezioni, con Syriza che ha pubblicato ha emanato insomma un programma elettorale che ha insomma abbastanza radicale, diciamo, no? Tu come la pensi? Se vuoi tu stesso illustrarci un po' i punti salienti e fondamentali di questo programma. Certo, è un programma radicale, come giustamente hai detto te, è un programma di sinistra, tutti si scagliano contro Syriza per questo programma qua, come spina dorsale di questo programma praticamente dichiarare che questo mnemonio, questi due mnemoni che sono imposti in Grecia saranno praticamente annullati da una legge che faranno nel Parlamento greco, che non riconoscono le firme dei ex ministri che hanno firmato, ex capi di il ministro dell'economia Venizelos e il capo della Nuova Democrazia, a proposito delle misure di legge che devono prendere per la liberalizzazione del mercato in Grecia dei vari lavori e tutte queste cose qua, che ridaranno praticamente i soldi agli stipendi di base che hanno annullato con la legge che hanno fatto un mese fa. Quindi ripristino del salario minimo che era stato abolito. Sì. E poi una cosa molto interessante per me che sono di sinistra è che hanno deciso di abolire i corpi di polizia che sono contro Somoza e scendono in piazza e picchiano la gente senza motivo, e poi che toglieranno le armi dai poliziotti che vengono in contatto con la popolazione, perché questa è la piaga della democrazia greca praticamente. Abbiamo visto, cioè, anche durante le manifestazioni in piazza come ha reagito la polizia, che è una cosa vergognosa. Senti, invece dal punto di vista di dove poi comunque trovare i soldi, no? per questo programma, quali sono le proposte? Sì, loro dicono che praticamente non abbiamo bisogni, i bisogni della comunità greca sono pochissimi e loro non daranno, non è che vogliono uscire dall'euro ovviamente, dicono che non pagheranno praticamente, dichiareranno che che i soldi che prendono per dare i tassi di interesse praticamente che ai nostri fornitori di soldi non saranno dati, perché dichiareranno che questo è una cosa vergognosa, è una cosa contro la popolazione greca, eccetera. E come noi sappiamo che i soldi che ci danno sia dalla Banca Centrale Europea sia dal Fondo Monetario Internazionale vanno tutti per pagare i nostri fornitori praticamente. Sì, sono i soldi che non vanno al popolo greco ma vanno alle banche fondamentalmente. Certo. Quindi una come tassi di interesse, certo. Cioè è una cosa vergognosa. Quindi una Didi. Attualmente ci hanno dato per esempio 3 miliardi, dovevano darci 4,2, no? Ci hanno dato 3 miliardi e 2, i quali sono dati direttamente ai nostri fornitori, ai nostri debitori praticamente. Un miliardo che non ci hanno dato ha creato dei problemi per i medicinali, che pensate che in questo momento c'erano problemi per i medicinali degli ammalati di cancro. Sì, questo l'abbiamo letto, ci sono delle file enormi davanti alle farmacie perché i farmacisti dicono che non hanno più medicinali, ma in realtà non danno più medicinali che sono passati dal sistema sanitario nazionale, no? Certo. Certo. Sì, ho sentito anche che i farmacisti hanno l'intenzione di aprire una specie di fondo di solidarietà, no? Per poter poi comprare questi farmaci. Sì, vedo che siete molto, molto informati, sono sì, cose sì. Che ovviamente si dicono perché capiscono la situazione. Vedere una persona di 60 anni che è ammalata di cancro e non potergli dare i medicinali, ovviamente spacca il cuore di tutti quanti che hanno una personalità, insomma, di ogni essere umano dovrebbe essere, insomma, e i farmacisti prendono misure di questo tipo qua. Senti, ma siccome c'è un attacco non solo interno in Grecia rispetto da parte per esempio di Nuova Democrazia e anche del PASOK rispetto a questo programma, ma anche un attacco internazionale, un'ingerenza forte nei confronti, alla faccia della democrazia, nei confronti del popolo greco riguardo alle prossime elezioni. Obama ha dichiarato ieri che si augura che i greci votino come vorrebbe lui, praticamente come vorrebbe la finanza internazionale, però rispetto a questo programma che mira evidentemente, se non a una rinegoziazione del debito, almeno a una procrastinazione, cioè creerà però un problema, probabilmente verranno chiusi i rubinetti. Sì, ma questo si è visto sia ieri con la presa di posizione di Obama sia i giorni precedenti e subito dopo le elezioni del 6 di maggio, che tutti non mi ricordo più se era il 6 di maggio, scusatemi. Sì, era il 6. Delle ultime elezioni praticamente, si è visto un'escalation di tutti i governanti dei paesi, diciamo, della Germania e tutti quelli che praticamente non avevano mai parlato a favore o contro la Grecia, che uscivano nelle TV e dicevano la loro Schäuble, Merkel, Sarkozy e anche Hollande praticamente è venuto a dirci che se non facciamo tutto quello che ci dice la comunità europea e il memorandum contro la crisi, praticamente saranno costretti a toglierci i soldi o a espellerci praticamente, a mandarci alla dracma. E tutta questa situazione qua ha creato anche tanta rabbia alla popolazione greca. Ecco, quindi tanta rabbia che non sappiamo come andrà a finire, cioè adesso che noi parliamo con la gente, usciamo in strada eccetera eccetera, vedi la gente che non parla di cosa voterà, di cosa farà, però c'è una rabbia sotto sotto che vedi, fa paura. Quindi questa campagna terroristica, questa sì, veramente nei confronti della popolazione greca, tu dici che insomma non trova spazio fondamentalmente? Non sappiamo se trova spazio, sta di fatto che vediamo la gente che non parla, conoscenze che abbiamo anche in Peloponneso, in altre parti della Grecia, dicono arrabbiati che porca la miseria, mettono in dubbio anche il pagamento delle pensioni ai vecchietti, tutte queste cose qua, perché la destra usa anche questi argomenti, no? Che se non prendiamo i soldi dopo le elezioni non avrete i soldi per pagare non avremo i soldi per pagare le pensioni. E qual è la Capite bene sì, che sì. Non sono liberi per votare per la sinistra o non so per chi, perché tutta questa paura qua non sai dove ti porta. Ma qual è la risposta di Syriza a questa minaccia, diciamo, sul piano proprio strettamente? La risposta di sinistra ovviamente è che vediamo la Spagna in questo momento, no? E gli altri paesi, che con queste misure la Grecia affonda. E di conseguenza o affonda con le misure della Banca Nazionale Europea, della Banca Internazionale Europea e del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, ovviamente più di così non si può fare, cioè o affonderemo con le misure loro o anche sarà meglio, almeno c'è la speranza che sarà meglio vivere senza loro, senza il loro aiuto che ci porta proprio al fondo del mare. Comunque Syriza fa anche proposte, per esempio, di tagliare le spese militari, di alzare la tassazione. Sì, è la prima volta che si è parlato di questa cosa qua, perché pensate che la Grecia, con la paura della Turchia, che hanno ovviamente alimentato questi capitalisti, e vendono armi sia in Grecia che in Turchia, no? E portano via una gran parte della ricchezza della Grecia e della Turchia. Ma questa è una favola, ragazzi. Non è possibile che un paese come la Grecia deve comprare carri armati e sommergibili che costano miliardi, e avere tutti questi armamenti, i quali non si usano mai, i quali non funzionano perché li comprano, e poi i nostri politici prendono una tangente dietro queste cose qua. Avrete saputo di Akis Tsohadzoglou, che adesso è in carcere, ex ministro della difesa, il quale ha preso miliardi dai tedeschi per comprare i sommergibili, per comprare i carri armati, per comprare gli aerei dalla Francia, non so da dove diavolo comprano. Sì, e poi c'è anche la proposta di alzare fino al 75% la tassazione sui grandi redditi. Sì, sì, quindi... certo. Cavolo, come si fa? In Grecia abbiamo la flotta navale più forte di tutto il mondo, no? E questi capitalisti non pagano quasi niente la Grecia. Tutti i loro capitali sono in Inghilterra, in Svizzera e in paesi tipo la Liberia, eccetera, eccetera, e in Grecia non pagano niente. Senti, e come la legge li tiene d'obbligo praticamente di tenere la bandiera greca sulle loro navi, su una gran parte delle loro navi, e solo per quello praticamente questi qua pagano meno di uno che prende uno stipendio, non so, di 2000 euro e paga le tasse con il 40% di tasse praticamente. Sì, e senti, sul loro stipendio. All'interno di, sappiamo che Syriza è insomma una formazione molto composita al suo interno, e su queste proposte c'è una reale unità, oppure c'è la possibilità insomma di contrasti anche interni? Certo che la linea del Syriza è la linea centrale, cioè che praticamente tutti concordano. Ovviamente all'interno di Syriza ci sono componenti che sono più a sinistra di Syriza. Sì. Insomma, sembra che sia passato questo per adesso, almeno nel programma. Nel programma sì, c'è questo. Basta dirti che nelle ultime elezioni c'erano diversi giovani, anche anarchici, che dicevano: voteremo Syriza perché è un fatto, cioè è una posizione statica. Anche un anarchico che è contrario alle elezioni praticamente vede che l'unica soluzione è questa qua, perché ragazzi, qua la popolazione proprio sente sulla pelle le misure che non proprio sono tremende. Adesso hanno mandato, non lo so, in ritardo la presentazione dei redditi, proprio per non far paura alla gente, che dovranno pagare una barca di soldi tutti quanti, anche se non hanno un lavoro. Senti, e invece il resto della sinistra, per esempio il Partito Comunista, come si è espresso rispetto a questo programma? Il Partito Comunista dice che la sua posizione è fuori dall'Unione Europea, ed era la sua posizione sempre dalla votazione del Maastricht, eccetera, eccetera. E di conseguenza lui non ha fiducia a Syriza. Però tanti membri del Partito Comunista Greco, tanti votanti del Partito Comunista Greco lo abbandonano, e io penso che a queste elezioni praticamente il Partito Comunista perderà un po' di voti. Senti, rispetto proprio poi alla campagna elettorale, mi dicevi ieri che Samaras si è rifiutato di avere un confronto televisivo con Tsipras, il leader di Syriza. Ma sì, perché qua in Grecia tutti i confronti televisivi si facevano con i vari diciamo capi di gruppi parlamentari, i quali uscivano lì, facevano un monologo e praticamente ognuno voleva quello che voleva dire, quello che voleva praticamente imporre, no? E basta. E Tsipras gli ha chiesto di fare un confronto, ma un confronto tipo quello che si è fatto in Francia, praticamente due capi di gruppi parlamentari che espongono le loro idee e che però l'altro ha la possibilità di contrattaccare, di fare delle domande e così via. E Samaras non l'ha accettato, come non l'aveva accettato anche nelle ultime elezioni con Evangelos Venizelos, il capo del PASOK. Quindi si riempiono molto la bocca di democrazia, ma poi in realtà si scoprono le carte, diciamo. Ma è ovvio, cioè, questa parola democrazia è stata violentata nei secoli, ragazzi, che è una cosa incredibile. È una cosa incredibile, guardate. E soprattutto noi greci che l'abbiamo studiata da bambini nelle scuole e così via, a vedere queste cose, che dicono come Giorgios Papandreou, no? Che ha visto il malcontento della popolazione, si è presentato alle elezioni dicendo i soldi ci sono, la gente l'ha votato e poi ci ha portato dietro il liberalismo economico della scuola di Chicago, cioè praticamente Friedman e compagnia bella. Certo, poi anche insomma questa ingerenza estera, questa campagna di terrore nei confronti di almeno formalmente libere elezioni, certo depone male rispetto a sto Ma sbandieramento della pensate, democrazia. certo. Pensate che in Grecia ci sono in questo momento più di 2.000 persone, 2.400 persone che sono suicidate a causa di queste misure drastiche sull'economia, e ci sono migliaia, fra i giovani ci sono il 30%, 40% dei giovani che non riescono a trovare lavoro. È una vergogna, ci sono migliaia di laureati che scappano all'estero per riuscire a trovare un lavoro. Sì, Questa è la realtà greca. certo. Senti, Tasso, invece rispetto appunto alla possibilità che appunto Syriza, anche se alleandosi con Sinistra Democratica, riesca poi ad avere la maggioranza parlamentare, quali possono essere gli scenari insomma messi in campo dall'altra parte del fronte? Cioè che se questa, diciamo, questa maggioranza venisse raggiunta, tu che un po' che panorama ti puoi prefigurare? Che tipo di Ma reazioni? guardate che sì, qua in Grecia c'è una legge fasulla, no? La quale dà al primo partito 50 deputati in più. Sui 300 praticamente i 50 sono un regalo per il primo partito. Nel caso che Syriza uscisse primo, ed è una cosa probabile, praticamente prenderebbe più di 130-140 parlamentari in Parlamento, cioè seggi di Parlamento, e di conseguenza trascinerebbe, secondo me, nel governo sia il Partito Comunista sia la Azimara, cioè il gruppo di sinistra che era uscito di Kouvelis, che era uscito da Syriza 7-8 mesi fa. E E quindi di secondo conseguenza un di governo di sinistra si poteva fare, e il discorso di Syriza è sempre questo, che noi vogliamo un governo di sinistra. Poi ci sono anche voci all'interno del Partito Socialista, cioè del PASOK, a parte che tanti dei loro deputati sono già usciti dal PASOK e sono passati anche in altre linee, perché ricordatevi che i socialisti avevano, non so, 161 deputati e hanno votato a favore di queste misure. 130 e così via, avevano perso già più di 30 deputati nel corso degli anni di governo che avevano in mano, no? E di conseguenza questi personaggi sono riusciti a trascinare anche una parte della gente che li votava, e il PASOK da dal 45%, 43% è arrivato ad essere un partito del 14%. Capite bene che tanti deputati hanno questa linea, hanno la coscienza sporca, cioè praticamente li vedi che cercano di dirla ma la dicono proprio malvolentieri, e di conseguenza all'interno del Parlamento le alleanze saranno una cosa da scoprire. Sì. Anche perché ci sono anche i ex deputati del 10% che ha preso Camenos, che era un deputato anche ministro della destra, il quale nazionalista come è ha detto basta, velà, questi ci portano al baratro e di conseguenza siamo capaci anche di allearci con Syriza, cioè l'ha detto chiaramente. Ecco. E ha una linea politica a proposito dell'economia e basta, d'accordo con Syriza. C'è anche un gruppo di destra che attualmente in Parlamento nelle ultime elezioni ha preso il 10 e passa del per cento dei votanti, che dice la stessa cosa che dice Syriza per quel che riguarda l'economia, cioè basta con il memorandum, usciamo restiamo nella comunità europea e nell'euro, però senza pagare i debiti che sono una cosa vergognosa. Perché la Grecia ha pagato miliardi di soldi per i tassi di interesse, ma miliardi e miliardi negli ultimi anni di tassi di interesse, soldi che la gente non ha visto mica in Grecia, cioè li prendevano di qua e li davano come tassi di interesse per i soldi che ci hanno dato. Certo, il salvataggio della Grecia in realtà è il salvataggio delle banche, come adesso poi si profila anche in Spagna. Ma per la Spagna. Certo, rispetto a questo, appunto, siccome sicuramente in Grecia si gioca una partita, anche se per adesso apparentemente solo parlamentare in quest'ambito che stiamo discutendo adesso, però è ancora una volta un laboratorio, no? Dove se si passa un programma di questo tipo si delinea una possibilità diversa, no? Di gestire questa crisi, appunto l'altra parte, il capitale, le forze reazionarie, ma non solo greche, ma ovviamente europee e mondiali, secondo te che possibilità di reazione in un caso del genere potrebbero avere? Per esempio, qualcuno parla di colpo di Stato, io in questa cosa insomma la vedo improbabile, però ci sono anche altri modi, no? Tu che sentore hai lì? Ma ti dirò, abbiamo visto 2 giorni fa, spero che l'avete visto anche voi, sì, sì. Nelle TV, come la destra i nazifascisti, il rappresentante del gruppo nazifascista ha picchiato 2 parlamentari della sinistra in una trasmissione della TV, no? Discutendo sui programmi politici dei vari partiti eccetera eccetera, si è alzato, ha tirato un bicchiere di acqua addosso a uno parlamentare e poi ha tirato dei ciaffoni a un'altra parlamentare, no? E ovviamente hanno queste misure, però la polizia e l'esercito, la polizia soprattutto, che ha spalleggiato questi gruppi di destra, no? Di nazifascisti, e che si sono visti nelle strade a picchiare la gente di colore. E ricordatevi che la destra praticamente ha appoggiato il suo programma sui gli immigrati, i quali che hanno affossato il sistema sanitario greco, che prendono gli stipendi e spediscono i soldi all'estero, eccetera, eccetera. Cose vergognose, no? Si sa, però questi nazifascisti picchiavano le gente, i lavoratori stranieri in mezzo alla strada, gente che praticamente senza nessun diritto in questo, come un animale in mezzo alla strada, ragazzi, pensate che questi qua hanno dato tutti i soldi della loro proprietà praticamente ai trafficanti turchi e greci per spostarli dall'Afghanistan o non so da dove vengono, dal Pakistan, eccetera, eccetera, vengono qua per guadagnare un pezzo di pane, lavorando come dei matti nei cantieri o lavorando anche, lavando i vetri delle macchine. E sti qua vanno a picchiare questa gente qua. Come fai a picchiare una persona in mezzo alla strada che non ti ha fatto niente? In 10 con il motorino arrivano, hanno dei bastoni e picchiano questa gente. Senti, quindi... questa gente qua, spalleggiata dalla polizia greca, spalleggiata dai governanti greci, è una minaccia per il popolo greco. Però penso che in questo momento, così come stanno andando le cose, la sinistra, cioè ogni greco riesce a vedere la realtà quella che è, e giocando sulla sua pelle la sua sopravvivenza, praticamente la sua e della sua famiglia, di queste cose qua penso che le spazzerà via, cioè che non abbiamo paura, non c'è paura. Quindi non credo che hanno la possibilità di fare qualcosa. Questo episodio che si è verificato, di cui parlavi, di questa aggressione durante questa trasmissione, comunque ha avuto molto rilievo in Grecia, diciamo, ha spostato un pochino. Penso di sì, perché vedi, tanta gente, avendo, diciamo, la rabbia contro i politici, perché erano loro che hanno creato questo Stato, che hanno creato tutte queste disavventure alla Grecia, no? Avendo questa rabbia, si sono spostati praticamente anche in gruppi, votando così a cuore praticamente leggero, no? E chi se ne frega, li facciamo pagare a tutti quanti le cose che hanno fatto, e votando anche Chrysiavgi praticamente. Questa gente qua però che ha visto chi sono, perché non conoscevano i nazifascisti, non sapevano che sti qua di Chrysiavgi sono nazifascisti, e di conseguenza adesso che l'hanno visto, adesso che si è parlato di questi, ovviamente non andranno di nuovo a votare, anche perché la Grecia, ragazzi, ha subito praticamente 4 anni di nazifascismo, dal 1941 al 1944, insomma, lo sapete bene, no? Certo. Paesi che si sono bruciati dai tedeschi, vi ricordo, non so, Vistomo e Calabria, la Grecia che ha avuto un movimento partigiano che era praticamente quello greco e quello jugoslavo i più forti che sono stati in Europa contro il nazismo e contro il fascismo, e di conseguenza non tollera, la popolazione greca non tollera questi atteggiamenti, non può tollerare. Sì, beh, poi per non parlare di tutti gli anni della dittatura dei colonnelli, no? Certo. Sì, va bene. Senti, rispetto a sempre a questo discorso che stiamo facendo adesso, io avevo letto che questo cosiddetto portavoce di Chrysiavgi, di Alba Dorata, era scappato indisturbato, pure questo è strano, dalla stazione televisiva Antenna, e si era rifugiato nel quartier generale del suo partito, e però c'è stato un mandato di cattura spiccato contro di lui, ma che poi non è stato eseguito, praticamente perché lui cercava di arrivare di sorpassare il limite per l'arresto in flagranza, no? Adesso com'è? Dove ma niente, è sempre latitante questo qui, è sparito. Certo, ma non lo capisci quanto hai una parte della polizia che ti copre. Se un operaio greco, no, che ha occupato una fabbrica, per esempio, sapete bene che c'è una fabbrica che di metalli che è occupata da 8-9 mesi, no? Praticamente lì, se un operaio di quelli lì chiude la porta della fabbrica e non fa passare gli altri, il giorno dopo lo beccano e lo mettono dentro. Quanto è uno di loro, come questo portavoce di Chrysiavgi, ovviamente lo coprono. Sto qua ha picchiato 2 deputati all'interno dello studio di un televisore, insomma, di una televisione. Ragazzi, Sì, senti, un'ultima domanda, Tasso. Rispetto, c'è stata nelle ultime elezioni, appunto del 6 maggio, un'astensione molto molto alta del 40%. Credi che questo dato, alla luce di tutto quello che dicevamo adesso, potrebbe cambiare e che qualche voto possa spostarsi su Syriza in questa astensione? Come la vedi tu? Ma certo che può cambiare, anche perché c'erano gruppi anarchici che avevano parlato di astensione, no? Come punto, diciamo, ideologico, strategico, eccetera, eccetera. E già si alzano voti da parte di loro che no a livello politico, cioè praticamente non è che il gruppo degli anarchici parla di partecipare alle elezioni, eccetera, eccetera, assolutamente no. Ma vedendo e parlando con loro, vedi che ci sono diversi di loro che sono disposti a votare Syriza, che a queste elezioni voteranno Syriza. Ho capito. Senti, perché vedono il gioco che si gioca, ve la è una cosa vergognosa. Quelli che ci hanno portato in questo stato vogliono presentarci come salvatori della patria. È una vergogna. Senti, nei quartieri comunque, insomma, questi al di là, ovviamente questa caccia ai immigrati, poi ci sono state anche delle manifestazioni comunque nelle settimane scorse, per esempio ad Atene. Sì, anche ieri c'è stata una manifestazione, eravamo circa 4-5 mila persone nel centro di Atene contro i nazifascisti. Ah, e comunque loro sono un problema, insomma, anche per l'attività politica dei compagni dentro Atene, ma non solo, pure a Patrasso, in altre città. Ma no, non è che fanno, sì, loro giocano sulla paura, però insomma non è che riescono a contrastarsi con le forze di sinistra. Sì, perché quello che poi, insomma, faticosamente si capisce che non è che questi fanno il comodo loro, ma insomma c'è una forma di opposizione anche adeguata, insomma, ai nazisti. Certo. Ma poi se non ci fosse la polizia che li ha coperti certo. Tutti questi anni, ovviamente che questi non avrebbero la possibilità di aumentare di numero e di presentarsi così nelle piazze, eccetera, eccetera. Okay. Cioè il vento, diciamo, della popolazione greca, non dico di sinistra, ma di tutti quanti, è tanto forte che li avrebbe portati via, non scherziamo davvero. Certo, questo è un problema comune anche qui da noi. Va bene, Tasso, io ti ringrazio tanto e magari ci aggiorniamo all'indomani delle elezioni del 17. Ma senza dubbio, io spero che, insomma, in Grecia ci sveglieremo un giorno un po' più diverso. Problema greco è che la Grecia comunque, al di là che magari sì, l'opposizione c'è un po' in tutta l'eurozona, però insomma ha dato un segnale da 2 anni a questa parte molto molto forte, insomma, di opposizione. Ci vuole. Va bene, Tasso, statemi bene, ciao.